so che ci sei, ma non ti so descrivere. So che ci sei e rischio di confondermi. Pensando a te non t'ho incontrata ancora, ma so che ci sei, nascosta in una favola. Le mani tue che non conosco ancora, sai, io le vorrei con dolce forza stringere. Chissà se poi un'emozione basterà e capirai quando un giorno ti incontrerò. Perché so che ci sei nelle città chiassose, nel profumo di rose che spesso la gente non sente che c'è. Perché so che ci sei dove faccio la spesa, o laddove non c'è più la mano di Dio che si cura di noi. La pelle tua non ho toccato ancora, sai, io la vorrei poter sfiorare e mordere. Anche la voce che è sempre stata dentro me conoscerò quando un giorno ti incontrerò. Perché so che ci sei nelle luci soffuse dei locali alla moda affollati e nessuno sa niente di te. Come te quando provi a capire chi sei. Son sicuro che il tempo verrà, come l'alba abbraccia ogni giorno, e potrò chiedere alla tua bocca qual è il modo di saperla baciare. Son sicuro che non ci sarà nessun suono di dolci campane, ma silenzio di calde emozioni fra noi. Perché so che ci sei dove faccio la spesa, o laddove non c'è più la mano di Dio che si cura di noi. Laddove non c'è più la mano di Dio che si cura di noi.